tra i Lapponi. Sulla riva occidentale del piccolo lago di Luossajärvi, situato parecchie miglia a nord del Monte Malm, c'era un accampamento Lappone. All'estremità meridionale dello specchio d'acqua si leva una montagna isolata e tondeggiante che i Lapponi chiamano Kirunavara e che a quanto pare è composta esclusivamente di minerali di ferro. A nord-est ne sorge un'altra, la Luossavaara, ricca anch'essa di ferro. Stavano già costruendo una ferrovia tra Gällivare e quei monti e ai piedi del Kirunavaara sorgevano una stazione e un albergo e abitazioni per gli ingegneri e gli operai. Una cittadina di casette minuscole e gaie, lassù dove le betulle intristite che vi abbondano non mettono gemme che dopo San Giovanni. A ovest del lago il terreno era pianeggiante e lì si erano accampate alcune famiglie Lapponi. In breve tempo si erano costruite la casa, non avevano dovuto per farlo né scavare il terreno, né far saltare la roccia, né erigere solide fondamenta. Scelto un luogo asciutto vicino al lago, avevano tagliato alcuni fasci di canne e spianato qualche gobba del terreno. Niente muri, niente tetti, grondaie, finestre, porte e serrature. Avevano semplicemente confitto nel terreno i pali delle tende e li avevano ricoperti con i teli ed ecco pronta la casa. Sul terreno uno strato di rame di pino e pelli di renna, in mezzo alla tenda una catena col gancio per appendervi la grossa marmita in cui i Lapponi cuociono la carne di renna che è il loro cibo preferito, e questo era tutto. I coloni della riva occidentale del lago, che sgobbavano per terminare le loro abitazioni prima che calasse il duro inverno, si stupivano delle costumanze dei Lapponi che da secoli dimorano nell'estremo nord e che non hanno, per difendersi dal freddo e dagli uragani, nulla di più solido dei teli da tenda. E i Lapponi non comprendevano perché i coloni si dessero tanto da fare quando per vivere bastano una tenda e poche renne. Un pomeriggio di luglio pioveva a dirotto e i Lapponi, che di solito in quella stagione vivono all'aperto, si erano radunati quasi tutti intorno al fuoco in una delle tende a bere il caffè. In quella s'accostò alla riva, vicino all'accampamento, un battello proveniente da Kiruna. Ne scesero un operaio e una ragazzina di 13 o 14 anni. I cani presero ad abbaiare furiosamente e un Lappone si affacciò all'apertura della tenda. Riconobbe l'operaio, un loro amico affabile e allegro che parlava la loro lingua, tale Söderberg, e lo salutò con gioia. I due furono accolti nella tenda e l'uomo cominciò a discorrere con i Lapponi. La ragazzina, che non capiva una parola di quel che dicevano, guardava incuriosita la marmita e la caffettiera, il fuoco e il fumo. Gli uomini e le donne, i bambini e i cani, le pareti di tela e le pelli stese al suolo, le pipe, le vesti variopinte e gli arnesi di legno intagliato. Tutto quello che vedeva era nuovo per lei, ma a un certo punto abbassò gli occhi perché tutti gli sguardi le si appuntavano addosso e comprese che Söderberg stava raccontando la sua storia. L'uomo che le sedeva accanto le diede un colpetto amichevole sulla spalla e le disse in svedese «Bene, bene». E una donna riempì una grossa tazza di caffè che, passando di mano in mano, giunse alle sue. E un ragazzo, su per giù della sua stessa età, le scivolò vicino, strisciando e scavalcando i seduti, e le si sdraiò accanto senza più toglierle gli occhi di dosso. La ragazzina capiva che Söderberg riferiva la faccenda delle esequie solenni da lei volute per il piccolo Mats, ma avrebbe preferito che si parlasse meno di lei e più di suo padre. Era venuta col treno da Gällivare a Kiruna perché aveva sentito dire che lui adesso viveva tra i Lapponi. Tutti erano stati gentilissimi con lei e un ingegnere l'aveva fatta accompagnare da Söderberg che parlava il Lappone. Ma suo padre non era lì. Osa s'avvedeva che Söderberg si faceva sempre più grave parlando con i Lapponi e questi scuotevano la testa battendosi la fronte con l'indice come si fa parlando di qualcuno che ha perso la ragione. Alla fine non seppe più resistere e chiese a Söderberg che cosa dicessero i Lapponi. «Dicono che è andato a pescare», suonò la risposta. «Non sanno se tornerà stasera, ma se il tempo migliorerà andranno a cercarlo». Poi Söderberg riprese la conversazione. Era evidente che voleva evitare che il discorso cadesse ancora su Jon Assarsson. La mattina dopo il tempo si era rimesso al bello. O la serca in persona, il più autorevole dei Lapponi, aveva promesso di andare alla ricerca di Yon, ma indugiava, coccolato davanti alla tenda, chiedendosi come annunciare al padre che la figlia era venuta a cercarlo. Non bisognava agitarlo, era già molto strano, stava alla larga dai bambini, diceva che non poteva vederli senza che gli venissero pensieri cupi. Nel frattempo, Osa e Aslak, il ragazzo Lappone che l'aveva tanto fissata la vigilia, discorrevano. Aslak sapeva lo svedese perché era andato a scuola e raccontava alla ragazzina particolari della vita dei Lapponi. Nessun altro popolo, assicurava, conduceva un'esistenza più felice. Ma Osa replicò chiaro e tondo che le pareva invece una vita atroce e che nel giro di una settimana lei sarebbe rimasta asfissiata dal fumo. Il ragazzo allora, visto che non sapeva nulla di loro, volle raccontarle una storia. Così ti convincerai che più si rimane presso di noi, più ci si trova bene, soggiunse. Ed ecco il suo racconto. Questo accadeva al tempo in cui la Svezia era devastata dalla morte nera. Non so se si fosse diffusa fino al paese dei Sami, dove attualmente ci troviamo, ma nello Jämtland fece tali stragi che rimase in vita della gente che viveva nelle foreste e sui fields solo un ragazzo di 15 anni. E degli svedesi che abitavano le valli dei fiumi, solo una ragazza della stessa età. Per tutto l'inverno i due, ognuno per conto proprio, percorsero il paese deserto alla ricerca di qualche superstite. Si incontrarono in primavera e lei pregò il Lappone di accompagnarla verso sud, dove sperava di trovare altri della sua razza. Il ragazzo accondiscese, ma non subito. Era primavera, spiegò. Le renne salivano verso i fields dell'ovest e i Sami erano costretti a seguirle. Benché figlia di gente agiata, la ragazza svedese non se la sentiva di tornare a casa, nella fattoria dove l'aspettavano solo morti, e decise di andare con lui nei fields. Così seguì anche lei le renne nelle loro peregrinazioni. Il branco si muoveva di continuo. Si poteva dormire soltanto nei momenti in cui le bestie si fermavano a pascolare. Giunti che furono sugli altipiani, il ragazzo drizzò la tenda su un piccolo pendio verdeggiante che digradava verso un ruscello. La sera prendeva a laccio le renne femmine per mungerle e i due giovani bevevano il latte tiepido e fragrante, mangiando la carne secca e il formaggio di renna che i parenti del ragazzo avevano nascosto in quel luogo l'estate precedente. La ragazza svedese si lamentava di quella vita, ma il figlio del popolo dei Fields rideva delle sue proteste, trattandola però sempre con la massima gentilezza. Un po' alla volta lei cominciò ad aiutarlo a mungere le renne, ad accendere il fuoco, a fare il formaggio e insieme tendevano lacci agli uccelli, pescavano trote, raccoglievano more. Finita l'estate, ridiscesero col branco fino al limite tra le betulle e i pini e poiché era il momento di uccidere una parte delle renne, il giovane insegnò alla ragazza le attività invernali, torcere il filo fatto con i tendini delle renne, conciarne le pelli, ricavarne vesti e calzature, fabbricare pettini e altri arnesi con le corna, correre sugli sci e sulla slitta tirata dalle renne. Quando il tetro inverno finì, il ragazzo le annunciò che poteva finalmente accompagnarla verso sud, ma lei gli disse: «È un anno che vivo come una Lappone. Come potrei tornare ad abitare in una casa angusta e chiusa dopo essermi aggirata così a lungo per le vostre foreste e i vostri fields?» E rimase tutta la vita accanto al Lappone, senza mai provare nostalgia per le vallate. «E forse anche tu, Osa», concluse Aslak, «se rimanessi qui per qualche tempo non vorresti più ripartire». Aslak tacque e suo padre, o la serca, si tolse la pipa di bocca e si alzò. Capiva lo svedese assai più di quanto non desiderasse ammettere e adesso sapeva proprio come fare per avvertire Jon Assarson che sua figlia era venuta a cercarlo. Ola scese al lago e andò lungo la riva finché non trovò un pescatore con i capelli grigi e le spalle curve che reggeva la lenza seduto su una pietra. Non c'era un pesce sull'erba e la lenza era senza amo. O la serca lo salutò. L'uomo trasalì e si decise a togliere la lenza dall'acqua e a prepararla. Il Lappone gli si sedette accanto. Vorrei chiederti un consiglio, esordì. Sai che avevo una figlia che è morta l'anno scorso e di cui sentiamo molto la mancanza, vero? Lo so, tagliò corto il pescatore, e una nube subito gli oscurò il volto. Non gli piaceva sentir parlare di ragazzi morti. Non si può vivere sempre piangendo, continuò Ola Serca, e io avrei pensato di adottare una ragazzina, che ne dici? Dipende, rispose l'altro evasivo. Voglio raccontarti quello che so della ragazzina a cui ho pensato, Jon, riprese Ola. E gli disse di due fratellini, un maschio e una femmina, che erano andati sul Malma a cercarvi il padre. E poi il ragazzino era morto per un incidente e la ragazza aveva voluto seppellirlo con tutti gli onori dovuti agli adulti. E per ottenerne il permesso era andata addirittura a parlare con il direttore delle miniere in persona. È questa ragazza che vuoi adottare? Chiese il pescatore pensieroso. Sì, Jon, quando ci hanno raccontato la sua storia abbiamo pianto tutti. Pensiamo che una sorella così buona sarebbe un'ottima figlia. Jon rimase per un po' in silenzio, poi domandò: È della tua razza, vero Ola? No, non appartiene ai Sami. Allora è figlia di un colono ed è già avvezza alla vita del nord? No, viene dal sud, da un paese lontanissimo, buttò lì Ola Serca. Il pescatore parve finalmente uscire dalla sua indifferenza. Allora non credo che sia prudente che la prendiate con voi, disse. Non potrà mai abituarsi a passare l'inverno sotto una tenda. Ma da noi troverà buoni genitori e buoni fratelli e sorelle, insistette Ola. Mi sembra che sia molto peggio essere soli e abbandonati. Pareva che al pescatore non andasse l'idea di una ragazza svedese accolta dai Lapponi. Ma non hai detto che suo padre è sul Monte Malm? Chiese. È morto, rispose seccamente Ola. Ne sei ben sicuro, Ola? Certo che sì, rispose il Lappone sprezzante. Credi forse che la piccola e suo fratello avrebbero dovuto percorrere tutto il paese alla sua ricerca se fosse stato in vita? E guadagnarsi la vita da soli se avessero avuto un padre? E la piccola avrebbe dovuto andare da sola a parlare con il direttore e rimarrebbe ancora sola adesso che tutto il paese parla del suo coraggio? Lei si ostina a credere che suo padre sia vivo, ma io dico che è morto. L'uomo volse verso di lui gli occhi stanchi. Come si chiama? Chiese. Il Lappone parve riflettere. Non me lo ricordo, ma glielo chiederò. È laggiù, nella mia tenda. E il pescatore. Ma Ola, l'hai presa con te prima di sapere se il padre è vivo o morto, e lo permette? Ribatté Ola. E che mi importa del padre? Se è vivo vuol dire che non si interessa della figlia. Dovrebbe essere ben contento che qualcuno se ne occupi. Il pescatore buttò la lenza e si alzò. Il Lappone proseguì. Può darsi che suo padre sia uno di quei tipi ossessionati da idee cupe, incapace di tenersi un lavoro. A che le servirebbe un padre simile? Il pescatore si era avviato lungo la riva. Dove vai? Chiese il Lappone. Vorrei vedere la tua figlia adottiva, Ola. D'accordo, vieni, acconsentì il Lappone. Vedrai che dirai anche tu che è una brava figliola. Lo svedese andava di buon passo e dopo un lungo silenzio Ola disse: Adesso mi ricordo qual è il suo nome. Si chiama Osa. Jon accelerò vieppiù il passo senza aprir bocca. Quando furono in vista dell'accampamento, Ola soggiunse: È venuta fin qui per cercare suo padre, ma se non lo trova sarò ben lieta di tenermela io. E lo svedese si mise quasi a correre. Sapevo che si sarebbe spaventato all'idea di sua figlia adottata dai Sami, disse tra sé Ola. La sera, quando l'operaio di Kiruna, che il giorno prima aveva accompagnato Osa all'accampamento, se ne tornò di là dal lago in barca, aveva con sé due persone che si tenevano per mano, come se temessero di venire nuovamente separate. Erano Jon Assarson e sua figlia. Già si notava un cambiamento in entrambi. L'uomo pareva meno stanco e meno curvo, e nei suoi occhi brillava una luce, come se finalmente avesse trovato la risposta a una domanda angosciosa, e Osa non scrutava più attorno con quella prudente circospezione che di solito la faceva apparire più adulta della sua età. Aveva trovato qualcuno cui appoggiarsi e pareva recuperare a poco la spensieratezza e la gioia di vivere propria dell'infanzia. A sud, a sud. Primo giorno di viaggio. Sabato, 1 ottobre. In groppa a Morten, il papero bianco, Nils volava al di sopra delle nuvole. Erano 31 le oche selvatiche che in perfetto triangolo andavano verso sud. Le penne frusciavano, le ali sferzavano, sibilando l'aria tanto che non si udiva quasi la propria voce. In testa, H di Kebnekaise. La seguivano a destra e a sinistra Ixi e Caxi, Colmo e Nelie, Visi e Cusi, Mortene e Piumafina, e quindi 22 giovani oche nate quell'anno nella vallata Lappone. 11 volavano a destra e 11 a sinistra, sforzandosi di mantenere tra loro intervalli regolari come le oche anziane. Le povere novizie, che non avevano mai viaggiato, dapprima fecero una gran fatica a seguire il rapido volo delle compagne. «Acca di Chebne Kaise! Acca di Chebne Kaise!» gridavano con voce lamentosa. «Che c'è?» chiese l'oca a capostormo. «Le nostre ali sono stanche! Le nostre ali sono stanche! Le nostre ali sono stanche!» «Vi abituerete!» ribatté Acca senza minimamente rallentare, e dopo 2 ore le giovani non si lamentarono più della stanchezza, ma allora presero a piagnucolare per la fame. Nella valle erano abituati a mangiare tutto il giorno. «Acca! Acca!» gridavano con voce lamentosa. «E adesso che c'è? Abbiamo tanta fame che non possiamo proseguire! Abbiamo tanta fame!» «Un'oca selvatica deve sapersi nutrire d'aria e bere il vento!» rispose velocemente e spietatamente Acca, senza rallentare affatto. E pareva che le giovani oche avessero appreso a nutrirsi d'aria e di vento, perché ben presto smisero di lamentarsi anche di questo. Volavano ancora sopra i fields e le oche vecchie gridavano forte il nome delle cime che superavano per insegnarlo alle giovani. Ma udendole senza posa annunciare: «Questo è il Porsok Tioco, e quello è il Sariek Tioco, e quest'altro il Sulitelma», le oche giovani riattaccarono con i piagnistei. «Acca! Acca!» gridavano con voce lacerante. «Che c'è ancora? Non c'è posto per tanti nomi nelle nostre teste! Non c'è posto per tanti nomi!» «Più cose entrano nella testa e più posto c'è!» rispose Acca senza scomporsi. Nils pensava che era davvero ora di avviarsi verso sud, perché tutto era già bianco di neve. Bisognava convenirne. Non era stato piacevole nei fields in questi ultimi tempi. Pioggia, tempesta, nebbie s'erano succedute e durante l'unica schiarita era gelato. Le bacche e i funghi che avevano sfamato Nils tutta l'estate erano appassiti per il freddo o ammuffiti, e il ragazzo aveva dovuto rassegnarsi a mangiare pesce crudo che non gli piaceva affatto. Le giornate si erano accorciate, le notti allungate, e quanto si desiderava il mattino, poiché era impossibile dormire per tutte le ore che il sole mancava. Finalmente le ali delle oche giovani si erano sufficientemente irrobustite e il viaggio verso sud aveva preso il via. Nils era felice. Non vedeva l'ora di abbandonare la Lapponia e di tornare verso la sua Scania. Le prime settimane non aveva sofferto di nostalgia. La Lapponia lo interessava molto. L'unico inconveniente erano gli sciami di zanzare. Con Acca e con Gorgo, Nils aveva fatto lunghi giri dall'alto del nevoso monte Chebne Kaise. Nils aveva ammirato i ghiacciai che ne circondano il cono bianco e diruto, aveva visto le caverne in cui le lupe allattano i piccoli, le renne che transitavano sulle rive del bel lago di Torne, e alle grandi cascate di Sieufallet aveva salutato gli orsi che vi dimoravano. Ma non gli sarebbe piaciuto abitare lassù. Acca aveva ragione, affermando che i coloni avrebbero fatto meglio a lasciare quei rudi passi agli animali selvatici e ai lapponi, che parevano creati apposta per viverci. Com'era felice di essere in rotta per la Scania, e alla prima selva di pini lanciò il berretto in aria, riprendendolo al volo. Di continuo si imbattevano in uccelli di passo, più numerosi ancora che in primavera. «Dove andate, oche selvatiche?» chiedevano gli uccelli. «Dove andate?» E le oche: «Andiamo all'estero come voi! Andiamo all'estero come voi!» «Ma i vostri piccoli non hanno abbastanza forze!» gridavano quelli di rimando. «Come faranno a varcare il mare con quelle deboli ali?» Anche i lapponi e le renne stavano abbandonando i fields, e le oche selvatiche, vedendo gli animali in fila, si abbassavano per gridar loro: «Arrivederci l'estate prossima! Arrivederci l'estate prossima!» E le renne rispondevano: buon viaggio e buon ritorno, oche selvatiche!» Invece, gli orsi, vedendo le oche, le indicavano brontolando agli orsacchiotti: «Guardate un po' quelle che per paura del freddo non hanno il coraggio di starsene d'inverno a casa loro!» Ma le oche rimbeccavano: «Guardate quei fannulloni che preferiscono dormire metà dell'anno piuttosto che far la fatica di migrare!» Nelle foreste di pini, i giovani galli cedroni stavano rannicchiati gli uni addosso agli altri, intirizziti e arruffati, guardando con invidia quegli stormi che allegri e cerlieri andavano verso il sud. «Quando toccherà a noi?» domandavano alla madre. «Quando toccherà a noi?» ripetevano con insistenza. E la madre rispondeva: «Voi resterete qui con i vostri genitori, voi resterete qui con i vostri genitori». Il monte Östberg. Finché le oche furono ancora in Lapponia, il tempo restò splendido, ma non appena entrarono nello Jämtland, furono avvolte dalle nebbie. Si posarono allora sopra un colle. A Nils pareva di trovarsi in un paese abitato perché gli sembrava di udire voci umane e un cigolio di ruote, ma le brume gli impedivano la visuale. Tutto era impregnato di umidità. Fece alcuni passi in cerca di un rifugio e si trovò davanti a un edificio non grande ma altissimo, disabitato e chiuso. Doveva essere una torre eretta per godersi il panorama. Tornò dalle oche. Caro Morten, disse al papero bianco, ti dispiacerebbe portarmi in cima a quella torre? Forse lassù c'è un posticino asciutto in cui dormire. L'oca accondiscese e il ragazzo si svegliò solo il mattino dopo, quando il sole gli raggiò in pieno viso. Sbatté le palpebre, stentando a raccapezzarsi, abituato ai deserti lapponi, ebbe l'impressione che quella regione, così abitata e coltivata, fosse un quadro, tanto più che il sole conferiva colori vivissimi a ogni cosa. La torre sorgeva su un'altura in mezzo a un'isola, presso la riva orientale di un vasto lago che era rosato come il cielo, mentre le rive erano dorate dall'autunno e dalle stoppie. Tutto attorno al lago, chiesette bianche, villaggi rossi e a est, di là dallo stretto che separava l'isola della terraferma, ai piedi di una montagna protettrice, una città sorgeva in mezzo a una plaga ben coltivata e fertile. La città si era scelta proprio una bella posizione, pensò Nils, ma che città poteva essere? Trasalì, sentendo passi salire per la scaletta della torre. Immerso nella contemplazione del panorama, non si era avveduto dei visitatori che si avvicinavano ed ebbe appena il tempo di cercarsi un nascondiglio. Si trattava di una comitiva di ragazzi e ragazze che facevano un'escursione a piedi per lo Jämtland e dopo aver pernottato nella città di Östersund di buon mattino avevano raggiunto il Frösö da cui la vista spazia per un raggio di 20 miglia. Si additavano le chiese e i fields pronunciandone ad alta voce i nomi. Una ragazza cavò dalla borsa una carta che spiegò sulle ginocchia e tutti si sedettero per esaminarla. Nils era inquieto, quelli si trattenevano e Morten non avrebbe potuto venirlo a prendere e sapeva che le oche avevano fretta di continuare il viaggio. Nel bel mezzo della conversazione degli escursionisti credette di udire uno starnazzare e un fruscio d'ali, ma non osò uscire dal nascondiglio. Leggende di Herjedalen, martedì 4 ottobre. Quando i gitanti se ne furono andati, Nils poté guardarsi attorno. Nessuna traccia delle oche. Morten non venne a prenderlo. Chiamò più volte, ma invano. Non pensò minimamente che l'avessero abbandonato, che fosse successo loro qualcosa. Era immerso in questi pensieri quando Bataki, il corvo, arrivò all'improvviso e subito gli si appollaiò accanto. Nils non avrebbe mai creduto che la vista di Bataki potesse dargli tanto piacere. Il corvo gli spiegò che H, visto un cacciatore, se n'era andato e aveva pregato lui di andare a prendere il ragazzo. Nils gli salì in groppa e l'uccello partì come una freccia verso sud. Scesero in un'ampia, bellissima vallata, attorno monti alti come nello Jämtland, ma pochi campi e pochissimi villaggi. Nils balzò a terra tra le stoppie. «L'estate scorsa qui c'era dell'orzo», disse il corvo Bataki. «Guarda se ne trovi qualche chicco da mangiare». Nils raggranellò qualche spiga e placò così la fame mentre Bataki discorreva. «Vedi quel grande bellissimo fil che si leva proprio a sud?» chiese il corvo. «Sì che lo vedo». «Bene, si chiama Sonfiel e un tempo era infestato dai lupi al punto che gli abitanti della vallata spesso faticavano a difendersene». «Non sai mica qualche bella storia di lupi?» E il corvo pronto cominciò. Ho sentito raccontare che tanto tempo fa i lupi avevano assalito un uomo che vendeva botti, tini e bigonce. Questo tale era di Hede, un villaggio a qualche miglio a monte di qui. Un inverno i lupi presero a inseguirlo sui ghiacci del fiume Ljusn, sul quale l'uomo procedeva a bordo di una slitta tirata da un vecchio ronzino. I lupi erano circa una dozzina e mancavano ancora 2 miglia alla più vicina fattoria. A un tratto l'uomo si avvide che qualcosa si muoveva più avanti, tra gli abeti piantati nel ghiaccio per segnalare il cammino, e quando capì di cosa si trattava, il suo terrore si accrebbe. Era una povera vecchia che percorreva mendicando il paese. La chiamavano Malin ed era gobba e zoppa. La vecchia avanzava diritta incontro ai lupi e l'uomo si rese conto che se non l'avesse avvertita del pericolo, sarebbe finita in bocca alle fiere, mentre lui sarebbe sfuggita alla loro caccia. Se invece si fosse fermato per farla salire sulla slitta, non avrebbe salvato né lei né se stesso, e a morire sarebbero stati in tre. Lui, la vecchia e il povero cavallo. Non era più giusto sacrificare una vita per salvarne altre due? In quel momento i lupi emisero un sinistro ululato. Il cavallo scartò, prendendo per un istante la mano al viaggiatore, e sorpassò la vecchia. Anche lei aveva udito l'ululato e aveva capito. E l'uomo, passando, la vide alzare le braccia e aprire la bocca come per gridare. Era perduta, ma lui era salvo. Dapprima tirò un sospiro di sollievo, seguito però da una stretta al cuore. Mai prima aveva commesso nulla di male, e da quel momento la sua vita sarebbe stata un inferno. Tirò con forza le redini. Riuscì a fermare il cavallo. «Presto, Malin!» gridò. «Monta sulla slitta!» Era in collera con se stesso per non aver abbandonato la vecchia alla sua sorte e soggiunse: «Faresti meglio a startene a casa invece di vagabondare, vecchia strega! Adesso il nero e io perderemo la vita per causa tua. Il povero nero ha già fatto più di 5 miglia oggi e tu non contribuisci certo ad alleggerire il carico!» I pattini stridevano sul ghiaccio, non però abbastanza da coprire l'ansito dei lupi. «Siamo fritti!» disse l'uomo ormai disperato. Non è servito né a te né a me averti preso sulla slitta. La vecchia, abituata a essere maltrattata, se n'era rimasta zitta, ma a questo punto aprì bocca e disse: Non capisco perché non sbarazzi la slitta dei fusti e dei tini. Potresti tornare a raccoglierli domani. L'uomo capì che il consiglio era buono e si stupì di non averci pensato prima. Affidò le redini alla vecchia, slegò le corde che trattenevano fusti e botti e lasciò rotolare il carico a terra. I lupi, spaventati e incuriositi, si fermarono a vedere di che si trattava, ciò che diede ai fuggiaschi un piccolo vantaggio. «Se non basta, mi butterò io in pasto ai lupi», disse la vecchia, «così forse tu riuscirai a salvarti». L'uomo, che stava slegando un'enorme botte, si fermò a mezzo e disse: «Possibile che un uomo e un cavallo in buone condizioni debbano dare una vecchia in pasto ai lupi per salvarsi? Ci deve essere un altro mezzo per cavarsela». E a questo punto scoppiò a ridere perché gli era balenata un'idea. «Prendi le redini, frusta e corri al villaggio di Linsel», ordinò a Malin. «Di alla gente che mi trovo solo sul ghiaccio in mezzo ai lupi e che vengano al mio soccorso». Poi attese che le fiere fossero vicinissime alla slitta, fece cadere la grande botte e, balzato anche lui dal veicolo, si infilò sotto il recipiente. La botte, fatta per contenere la birra di Natale di una grande fattoria, lo accoglieva comodamente. I lupi le balzavano attorno, cercando invano di rovesciarla e mordendo i cerchi di ferro. La botte era pesante e solida, e l'uomo, ormai al sicuro, concluse: Quando mi troverò in difficoltà, d'ora in poi penserò alla botte e saprò che non occorre sacrificare né se stessi né gli altri. C'è sempre una terza via d'uscita, si tratta soltanto di trovarla. Bataki terminò la sua storia dando alle parole un'intonazione particolare, sentenziosa, che del resto gli era abituale quando si metteva a raccontare. Che avesse voluto alludere a qualcosa? Pensò Nils, ma per il momento non seppe darsi una risposta. Dopo aver mangiato, Bataki e il ragazzo ripresero il volo seguendo il corso dell'Ljusn. Nei pressi di Kolset, un villaggio ai confini con lo Helsingland, il corvo atterrò presso una bassa capanna che non aveva finestre, ma solo un abbaino. Dal comignolo uscivano fumo e scintille e all'interno risuonavano colpi di martello. Ho visto questa fucina, disse il corvo, e mi sono ricordato che in questo villaggio c'erano un tempo fabbri ferrai che non avevano rivali in fatto di abilità. Ho sentito molte storie sul loro conto. Nils lo pregò di raccontargliene una e Batacchi cominciò. Un fabbro aveva sfidato una volta due suoi colleghi, uno della Dalecarlia, l'altro del Vermland, a gareggiare con lui nella fabbricazione di chiodi. La sfida venne accettata e i tre si riunirono qui a Colset. Cominciò il Dalecarliano, il quale forgiò una dozzina di chiodi talmente uguali l'uno all'altro, aguzzi e lustri, che nessuno poteva far di meglio. Fu poi la volta del Vermlandese, anch'egli fece una dozzina di chiodi perfetti e gli occorse la metà del tempo impiegato dall'altro. I giudici di gara sconsigliarono il fabbro dello Herjedalen dal tentare la prova. Non poteva far meglio dell'uno e più rapidamente dell'altro, ma il fabbro non volle intendere nessuna ragione e disse con ostinazione che doveva pure esserci un terzo modo di farsi onore. Mise il ferro sull'incudine, senza prima arroventarlo. Lo scaldò a martellate e forgiò i chiodi senza servirsi né di carbone né di mantice. Nessuno aveva mai visto maneggiare il martello con tanta destrezza e il fabbro dello Herjedalen venne proclamato vincitore. Batacchi tacque. Nils rifletté un istante, poi chiese quale fosse stata l'intenzione del corvo nel raccontargli la storia. Oh, niente, me ne sono ricordato rivedendo questa vecchia fucina, rispose Batacchi evasivo. Ripresero il volo. Il corvo trasportò Nils attraverso quella parte dello Herjedalen che confina con la Dalecarlia e scese su una piccola altura dominante un altopiano. Chiese al ragazzo se sapeva che cos'era il tumulo ai suoi piedi e Nils confessò la sua ignoranza. Ebbene, te lo dirò, riprese il corvo. È stato eretto sopra la tomba di un uomo chiamato Heriulf, che è stato il primo a stanziarsi nello Herjedalen e a coltivarne la terra. E avendogli Nils chiesto se c'era una storia anche sul suo conto, Batacchi rispose: Non ne so molto di lui, ma credo che fosse norvegese. Era stato al servizio del suo re, con il quale era poi entrato in discordia, e allora si era messo al servizio del re di Svezia che risiedeva a Uppsala. Dopo qualche tempo chiese la mano della sorella del monarca e, avendogliela questi rifiutata, la rapì. Così non poteva più né tornare in Norvegia né restare in Svezia. E d'altro canto non voleva andarsene dalla Scandinavia. Ci deve pure essere una terza possibilità, si disse, e con i suoi servitori e i suoi tesori si diresse al nord attraverso la Dalecarlia, finché giunse ai grandi deserti che si estendevano a settentrione di quella provincia. Qui si fermò, si costruì una casa, dissodò il suolo e divenne il primo abitante del paese. Quest'ultima storia aveva lasciato Nils più che mai perplesso. Perché non vuoi dirmi a che cosa miri raccontandomi tutto questo? Chiese. Batacchi dapprima non rispose, si limitò a girare di qua e di là la testa, socchiudendo gli occhi, ma infine rispose: Visto che siamo soli, vorrei farti a mia volta una domanda. Secondo te, qual è la condizione imposta dal coboldo che ti ha trasformato perché tu possa tornare a essere un ragazzo normale? La sola di cui ho udito parlare, rispose Nils, è che dovevo accompagnare il papero bianco in Lapponia e riportarlo sano e salvo nella Scania. Proprio come pensavo, replicò Batacchi. E infatti l'ultima volta che ci siamo visti affermavi con calore che è infame tradire la fiducia di un amico. Ma faresti meglio a chiedere consiglio ad Acca. Sai che è andata a casa tua per parlare personalmente con il coboldo? No, Acca non me l'aveva detto. Evidentemente pensava che per te sia meglio ignorare ciò che il coboldo le ha detto. Tiene più a te che all'oca bianca. È strano, Batacchi, ma tu hai il potere di rendermi sempre triste e inquieto. Può essere, e me ne dispiace, ribatté il corvo, ma questa volta credo che mi sarai grato se ti ripeto le parole del coboldo. Ha detto che tornerai a essere un uomo se ricondurrai a casa Morten perché tua madre gli possa tirare il collo. Nils balzò in piedi. Non è possibile, Batacchi, esclamò. È una cattiveria che ti sei inventato tu. Perché non lo chiedi tu stesso ad Acca? Mi pare che stia avvicinandosi con il suo stormo. Ma non dimenticare le storie che ti ho raccontato quest'oggi. C'è sempre il modo di uscire da tutte le difficoltà. Basta Basta trovarlo. Sono curioso di vedere come te la caverai.